Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Quando mi chiamava gli dicevo dove sei, sono da lui, le rideva, no? È certo che ho il numero del presidente. Cesar Habitavit, primo in Suburra, scrisse Svetonio. Il cubo delle discoteche, lo scrano della politica, le soubrette, la televisione, la musica di Apicella, gli stacchetti e le feste di Arcore. Questa settimana Storiacce entra nella Suburra, la via che, come scrisse il biografo dei Re di Roma, ripreso poi da Eugenio Scalfari, correva perpendicolare alla strada delle legioni vittoriose e dei loro comandamenti. Storiacce vi entra perché la Suburra è diventata non soltanto una polemica, ma l'ultimo ciclone giudiziario che sta coinvolgendo il premier col nome di una ex minorenne marocchina, Ruby, e con due accuse pesanti, concussione e prostituzione minorile. In questa settimana voci e versioni si sono incrociate e sovrapposte ai documenti di un'inchiesta che vi abbiamo raccontato, con verbali, intercettazioni, contestazioni della procura, smentite della difesa. Ora, lasciato Corso di Porta Vittoria a Milano e il Palazzo di Giustizia, teatro nelle prossime settimane di rinnovati e infuocati scontri, Storiacce entra nelle feste di Arcore con le voci di due protagoniste, perché al di là di quello che ciascuno pensi, se una vicenda tocca i massimi rappresentanti delle istituzioni e diventa tema politico, è una vicenda che riguarda anche il paese. Caterina Pasquino è stata l'ex coinquilina di Ruby, quella che l'ha denunciata per furto, provocandone il fermo in questura, in quella convulsa notte di telefonate, bugie e tensioni. È sempre lei che a verbale, il 7 luglio, dichiara che Ruby le aveva detto di essere molto amica del Presidente del Consiglio. A suo dire, leggiamo dagli atti, è stata spesso a casa del Premier, dove ha cenato, ballato e fatto sesso con lui, il quale le dava molto denaro. Ora invece, ve lo anticipiamo subito, la stessa Pasquino smorza i toni e rettifica. Ruby l'ho conosciuta tramite il suo amico in discoteca e poi un giorno lei aveva bisogno dell'ospitalità, l'ho ospitata a casa mia. La vedevo un po' la ragazza con soldi, ma lei mi diceva che il papà faceva il manager della Yamamaya, la madre cantante, che era benestante. Dopo, da un tratto, questa ragazza qui la vedevo sempre con soldi. Io mi sono un po' sospettita. Io gli ho detto semplicemente: Ruby, troviti un'altra sistemazione. E da quel giorno, il giorno dopo, lei mi ha detto: no, tanto me ne vado a Catania. Io mi sono tutelata dal furto, dalla gente che mi suonava a casa e che voleva i soldi da lei. Cioè, era gente che voleva soldi da Ruby? Sì, di tassisti. Il furto a me, che come? 3.000 euro più il telefonino, più gli oggetti e dei vestiti. Cioè, i testimoni quando sono stata derubata. E a quel punto lei ha chiamato il 113, giusto? Certo, è normale, sono andata lì dalla polizia, non sapevo il cognome perché non me lo ricordavo. Lei mi aveva detto un cognome egiziano, non mi ha detto che era marocchina lei, perché io sapevo che aveva 19 anni. E io dopo 5 giorni, adesso non mi ricordo veramente le date, qua non capisco più niente, mi sembra uno scherzo veramente. E ho chiamato questa volante, la polizia ci ha divisi, è andata via in taxi dietro, davanti alla polizia. Lei poi ha avvisato la Michelle? No, Michelle mi ha chiamato a me la notte, o Michelle non so chi sia, mi ha chiamato la notte dicendomi cos'hai combinato, non te la facciamo pagare, ci ho scritto anche i messaggi, quindi. Non sa chi fosse? Sì. No, delle donne no. Ecco Caterina, quindi Ruby in sostanza le diceva che era egiziana e le diceva che tutti quei soldi provenivano dalla sua famiglia benestante? Suo padre era manager della Yamamaya, sua mamma era cantante, quando il padre non lavorava come manager, lavorava e cantava con sua mamma come piacere, no? Non so veramente qual è la verità, perché lei mi diceva un sacco di bugie, una volta che glieli dava il presidente, una volta che gli davano i suoi, poi la vedeva in giro con uomini grandi, la ragazza non diceva non piacermi neanche più. Dopo che io gli ho detto e trovate una sua sistemazione, lei mi ha derubato, e quando mi ha visto in centro estetico mi faceva brutti gesti, mi ha detto non mi fai niente, ci ho scritto i messaggi di Ruby che le diceva certo, questo certo. Ecco sì. Ma quindi lei le aveva però parlato anche delle sue frequentazioni e dei personaggi importanti che incontrava, contesto? Appunto, essendo che io frequento queste serate anch'io dei personaggi, a lei non l'ho mai visto quei personaggi in giro, io l'ho vista sia ragazzina veramente, sempre da sola. Non ho mai, anzi, solo con uomini strani, neanche famose né niente. Non l'ho visto sempre con gente altra e basta. Io con gente famosa non l'ho mai vista, neanche dal mio agente delle mora. non l'ho mai vista. Infatti il mio agente è stato carinissimo con me, perché sono andata piangendo, perché lei mi diceva che andava da lui, ho detto mo vado a vedere se andava da lui, e niente, invece non è vero. Cioè l'elemora le diceva che non era vero che Ruby... No, diceva figurati se io prendo una ragazza del genere, denunciala. Lui mi ha detto anche denunciarlo, non so neanche lui che aveva 17 anni. Cioè l'elemora le aveva detto di denunciare Ruby perché l'aveva derubata. Lui mi ha dato un consiglio, cosa vuoi che ti dica? Cioè, tutelati, no? Denunciala, normale, no? Ma quindi l'elemora non le aveva detto della richiesta di affido che stavano facendo per Ruby? No, ma l'elemora no, io ho sentito dopo anche l'elemora... No. Non ho mai detto nulla di queste cose. Io dicevo, ma è vero questa cosa? Ma quella è fuori, mi diceva l'elemora. No, no, non ho mai detto nulla a me l'elemora. In che modo Ruby le aveva spiegato che lei aveva queste frequentazioni importanti e che frequentava anche il presidente? Come c'era arrivato? Non la credevo più, allora quindi non stavo lì a specificare le cose. Non me lo ricordo proprio che me l'ha raccontato come ha conosciuto il premier. Però lei le aveva detto che l'aveva conosciuto, no? Certo che me l'aveva detto che l'avevo conosciuto. E come? Che la faceva stare a diventare una star anche. E cos'altro? A posto di Belen e di Aida di Esbica. E cos'altro le aveva raccontato di questi colloqui? Niente, che lei adesso si prendeva a casa, cioè andava in un'altra casa, delle case di Milano 2. Cioè le aveva detto che... Quindi non l'ho mai creduta. Che le avevano promesso una casa a Milano 2, però ecco no... Ma no, lei dice che ce l'aveva già, lei diceva. E invece dei colloqui con Berlusconi, delle feste, cos'altro le aveva raccontato? No, che si diceva le cene, si cantava e basta. Anche quando mi chiamava mi diceva dove sei, sono da lui, lei rideva, no? E te io ridevo pure, ah sì, ma va, che bello, li facevo io, sai, la presi per in giro perché non ci credevo, io ridevo, ah sì, sì, va bene, ok. Poi scompariva anche per 3 giorni, cioè, non lo so. Però lei ha raccontato che Ruby gli aveva riferito anche di aver avuto un rapporto con il presidente. Io non ho mai detto una cosa del genere, che ha avuto un rapporto col presidente. Ma stiamo scherzando, lei di sesso non ha parlato mai, perché io la stoppavo, perché sa che io sono contro la prostituzione e mi dava fastidio queste cose qua. Non ci credevo. Io adesso sto guardando il giornale dove dice tabulate che io dico che lei se la faceva col presidente, che lei mi diceva. E invece non è vero? No. Ma lei l'ha raccontato ai magistrati, a chi l'ha interrogata? Ma io non ho mai parlato con i magistrati interrogata, non sono stata mai ascoltata. Come mai ascoltata? Lei è stata ascoltata... No, telefonicamente. Le avranno fatto firmare un verbale? No, ho firmato io niente mai, non l'ho mai creduta. Perché mi diceva prima una cosa e poi un'altra. Quello ha detto alle forze dell'ordine. Semplicemente ha detto anche nelle telefono, ha detto ma che stai facendo sesso? Gli ho detto io. Poi dimmi che se ti chiedi dice ah mo faceva sesso, che ne so io se faceva sesso o no. Che ti regalano le cose per niente nella vita. Faccia capire che questo non è un punto non chiaro. Cioè lei era una battuta che aveva fatto con Ruby? Sì, una battuta che le diceva ma che stai facendo pure sesso? No, a me non mi spiora neanche. Ma ha sempre detto questo. Gliel'ha sempre detto questo? Sì, quello me l'ha detto sempre, non mi spero neanche. Infatti leggo il giornale dove dice tabulati che io dico che lei alla questura che lei faceva sesso col presidente. Non è vero assolutamente niente. Non capivo se erano vero o non vero, però soldi ne ho viste. Ma che è una battuta che diceva, tipo che io dico alla mia amica, oh stasera ti sei fatto a quello? Come aveva risposto? Lei mi ha risposto, no, non mi spero neanche a me, sono la sua preferita. Sono la sua preferita? Le aveva raccontato qualcosa di quello che le era capitato? No. Sì, ho scoperto tutto tramite televisione, dove questa ragazzina viveva, e mi ha pianto il cuore, perché quando io vedevo tanti regali che faceva le altre persone, quando le partite, gli ho detto, ma un paio di scarpe tuo fratellino glielo puoi comprare? E lei mi ha detto, no Katia, mi ha detto, loro hanno bisogno, ne hanno tanti, sono sempre pieni di, ogni giorno gli compro 100 scarpe i miei addirittura. E smorza i toni pure Maria Esther Polanco Garcia, soubrette di Colorado Café, una delle inquiline di quel residence dell'Olgettina, Milano 2, dove, secondo i magistrati milanesi, le case sarebbero date in comodato d'uso alle ragazze di Arcore. Al di là dei singoli particolari, tra gli ostacoli di questa complicata vicenda, che interessa perché è un'inchiesta della magistratura e non gossip, lo ripetiamo, che sta coinvolgendo il premier, c'è dunque anche discernere il vero dal falso, affiancare le dichiarazioni rese dai magistrati a quelle raccolte dalle indagini difensive. Io l'ho conosciuto di persona, è una festa del Milan che fanno a San Siro, così, no? Allora io ho fatto finta che andavo al bagno, così, però era perché volevo vederlo da vicino. Io, vabbè, non è che passo inosservata, si è girato, allora io ho accorto l'occasione per dirle che per me era un piacere vederlo. Allora mi ha messo la mano, mi ha fatto dei belli complimenti, no? Da lì ci siamo poi visti, mi ha cercato lui. Lei lavora a Mediaset, giusto? Sì, io ho lavorato anche con Mediaset. Ha il numero di Berlusconi? Certo che ho il numero del presidente. Quindi lei ha il numero del presidente? Io sì, che ho il numero di lui. Lui è una persona che ha fatto cose per me che io le ho chiesto, capito? Non che poi le ragazze, le altre, non ti so dire niente delle altre ragazze. Certo. Io parlo di me anche qua, quindi... Lei lo ha chiamato, lui l'ha chiamata qualche volta? Assolutamente, perché avevo bisogno, sì, l'ho chiamato, assolutamente sì, perché è la persona che mi ha aiutato con mia figlia, generoso soprattutto. Ruby l'ha mai conosciuta? Sì che l'ho conosciuta. Ad Arcore oppure l'ha conosciuta in altre occasioni? A una cena l'ho vista. A me si è presentata come una ragazza di 24 anni, che era dei genitori brasiliani, mamma egiziana, ma cioè marocchina, non lo so. Sapevo che veniva da una brutta vita. Ha detto che era stata violentata da ragazzina, che il padre le aveva buttato l'olio addosso. Gliel'aveva mai raccontato questo? No, quello sì, dell'olio addosso sì, ma della violentazione no. So che ha una grande cicatrice in testa, nel cranio, abbastanza grossa. A lei è capitato di chiamare anche il dottor Spinelli? Sì. E come mai lo chiamava? Perché, come l'ho detto prima, essendo che comunque il presidente, nei momenti che avevo bisogno, lui mi ha detto, essendo che non ci sono, se hai bisogno d'urgenza, mi ha lasciato il numero di Spinelli, quindi... E lei lo chiamava per chiedergli quando aveva necessità anche di soldi? Avevo bisogno, chiaro, chiamavo il signore Spinelli, le dicevo quando, non so, le ricette, oppure quando volevo prendere un appuntamento per l'ospedale con la bambina, nei momenti dei bisogni miei. Io andavo in ospedale, mi facevo fare il preventivo, allora lui mi dava quello che avevo bisogno per pagare quella cosa lì. E glieli dava in contanti? Se mi dava i soldi è giusto che mi dava i soldi per pagare il preventivo, non mica mi dava un assegno per portarlo là. E le case dell'Olgettina? Sì. Lei abita lì? Chiaro, abito in via Olgettina 65. Come mai lei abita in quella casa? Abito in quella casa perché, essendo che sono una ragazza che lavorava a Colorado, che sono due passi, San Maurizio all'Ambro, ho deciso di vivere lì. Come l'ha trovata questa casa? Essendo che la Nicola abitava lì prima. La Minette. Andò lì e lei faceva anche Colorado con me, le ho chiesto se... c'era qualche casa vuota e lei mi aveva detto di sì, se mi informo e ti faccio sapere. Voi pagate un affitto oppure no? Chiaro che paghiamo un affitto perché qua nessuno ti dà niente gratis. Le posso chiedere quanto? Io pago, dipende, 1300 euro. Molti di voi lavorano nella televisione o comunque hanno... Molti di voi sono due che lavorano in televisione e basta. E qualcun'altra però comunque era anche nelle feste di Arcore, anche se non lavora in televisione. Può darsi, sì, è capitato di andare lì, che devi vederle. E abitate tutte nella stessa zona? Sì, tutte, ma siamo in 5, non in 14 come dicono loro. Staremo a vedere dove porterà questa inchiesta, che intanto ha già riacceso i toni dello scontro tra politica e giustizia. Ma prima di darvi come sempre appuntamento a sabato prossimo e anche in settimana con le inchieste di Storiacce, vi voglio raccontare che ieri le Storiacce sono state al Quirinale. Ero infatti tra i giornalisti invitati dal Capo dello Stato per i riconoscimenti attribuiti proprio a questa rubrica. Per i dettagli sul blog. A voi grazie tante e a sabato.